ciao Andrea, buonasera a tutti. Buonasera, ciao Andrea, forte e chiaro. Certo, ma c'è anche sguscio con lei, atto? Sì, avanti sguscio. Sembra atto lui, non lo so. Ehi, ha già lui, ma non lo so. Come vi sto arrivando, Luca? Fai, un passaggio. 1-2-3, 1-2-3, ola ola. Quasi siamo quasi 9:30, sì. Kappa, con sguscio non riusciamo ancora, purtroppo, vabbè, adesso vediamo quando arriva la boomerang se miglioriamo. Ciao, mi sentite? Che c'è Luca sul canale? Ci ho messo i pomponi, avanti pomponi. Pompetta, ci sei. Eia. Non sei da pomponi, oh. Andre. Ciao pomponio, ti sento bassissimo. Cazzo mi senti basso? Ma ho problemi di antenna, ragazzi. Ma te lo senti basso, a pomponio, strano. Sì, lo sento bassissimo. È più vicino lui di me. Ma guarda, due o tre giorni ho problemi di stazionario, non riesco ad accordare. C'ho qualcosa in quanto PL, devo buttare giù tutto e rifarlo da zero. Cioè, l'unico che senti bene è adesso che sia lui e basta. Capo, ma tu sei al naturale o gasato? No, quelli sono al naturale. E quelli sono gasato, guarda. Kappa, ti sento bene al primo e benissimo al secondo. Quando prendo una bottiglia, no? Come si dice, se dai sciocchitteggi, allora si gasa, capito? C'è il gas e lui fa. Quello è uno spumantino di quelli seri, va? Sì, ma lo uso solo per emergenza. L'ho attaccato. Non dà fastidio, è la cuccia, e adesso mi devo organizzare, mettergli una pentola sopra così la fredda va via, accendi. Già va bene. Vabbè, io vi lascio, vado in bianco un attimino in servizio qua sul canale. Ciao, alla prossima. Un po' arrivi in basso, sei più vicino tu. Allora lui è in via zona via Mendola. Dove stai, sei più vicino tu di me? Evidentemente non c'è antenna, si sarà attaccato al multivento. Sì, ciao Pompone, adesso invece ti ho sentito bene questo passaggio. Strano. Ma sono ballerino anche alla ricezione. Va bene, ciao, buona serata, alle prossime. Ciao, alle prossime. Beh, vi saluto anch'io ragazzi, ciao a tutti. Ciao Pompone, mica lo sapevo che eri tu. Già va bene. Sono rientrato dopo 20 anni, ho detto questa voce la conosco, dice polpetta, e poi già dico, bene Meda, dai, piacere di averti risentito. Ciao Antonio, ciao a tutti, ciao fratello Andrea, anche se non ti sento, non mi senti, ci aggiorniamo alle prossime. Ciao. Non è pompetta. Sì, pompone più che altro. Oioia. Frusciavi. Calmino ragazzo. Ciao Giada. E allora? Devo cantare adesso. Poi è una gana, puoi cantare per carità. Prima lo fa Dio. Un quel programma famoso. Adesso non più. Che sono? Sì, ancora di presto. Sto faccio appuntamento alla barbiera alle 9. Però devo essere lì almeno alle 9:10. Kappa. Ma non va? Sì, quanto paghi tu già? 15. A chi? Io vado dal figlio di Alfonso, da Massimo. No, io vado dal cugino Rietta. E Massimo è bravo, Massimo fa i corsi. E perché il cugino di Mario non fa i corsi? Chiaro. Vabbè, comunque è bravo, lui taglia bene. Non so se li fa come li voglio io, un po' difficile. Con i disegni, con i cori, come li vogliono i ragazzi, dai. Non lo so, non ne ho idea già. Ma c'è presenti, ci sono quelli che si fanno i disegni in testa, non li ho mai visti. Ah sì, io faccio le due strisce a destra, piccoline, e una lunga a sinistra. Infatti quel vestito è un bel letto lavorato, ma cazzo ti fa circuitare al vicinato. Io devo prendere l'appuntato, ma devo tagliare anch'io, li ho tagliati prima di Natale e mi sono ricresciuto. Ficca, te non ti mi sei tagliati i beri? Te l'ho detto, l'ho tagliati, cosa ti posso dire, c'era stato il 20 di dicembre. Io vado ogni mese già. ogni 20 giorni, dipende. 25, dipende da... capito, mi faccio corti, si assentano i miei a crescere, capito? Se mi porto taglio normale, devo usare ogni dieta di inchi. Ma c'è freddo adesso a parte di corti, cioè. Se io esco di notte col cane, è freddo. Sì, mi muovo la cuffietta. E già basta a carne giù, mi muovo la sciarpa, la cuffia, tutto l'altro. Però, sempre umidità, tanto c'era un vento oggi. Stavo guardando l'antenna, perché ero lì a luna e sole. Stavo guardando l'antenna di carro, ma sai come ti si pigia? Allora, sono andato a Bordottore, questo mio amico che è morto, poverino, te le mura. Ha dato l'ultimo saluto. E sono passato in una via, c'era questa... è rimasta, per carità, sta pigiata a un fianco era. Stavo bene. Che antenna c'era? Una Game Master. E non sarà quella di Eugenio, no? No, dice quella di Emiliano. La Game Master si spacca il commento. Ah, non mette un resina, non resiste più di tanto, è fino a fine. Infatti lui dice che l'antenna d'alluminio lo sbacci. L'antenna... guarda, se avessi una struttura più forte, con l'antenna lì va bene, perché come segnali mi danno segnali buoni, certo. Un euro di stazionarie, tutti i canali, puoi girare 45, 50, sempre che un euro c'ha. E poi l'altra cosa di buono che c'ha è che non c'ha corrente. Eia, io lo so. Adesso come l'ho sistemata, poi ce l'ho messa vista, la vita, come l'ho sistemata, a più ricezione, a più corrente. Comunque i segnali sono cambiati, che poi Eugenio mi arriva meglio. Comunque anche l'amplificatore sta viaggiando bene, adesso devo cercare un avvento domani. E gliela piazzo. Sai che gli faccio un foro sopra, faccio passare il filo dentro, con te non si vada niente, se no è brutto vedersi. E se mi dà l'aggancio dietro, boh, al capo di dietro. Ma cosa vedi me? Una ventola. Ah, te l'ho detto come fare. Ti metti, solitamente delle bici praticamente che tengano tra una lettera e l'altra. Le vite autodilettanti che ti tengano le cose, non te ne esci più. Oppure puoi fare come ho fatto io ho messo il biadesivo, non è più uscito. Potrò fare anche così? Il biadesivo non esce perché scalda e si attacca ancora di più. Allora ti pompo. Ma cosa ci dicendo? Cosa stai dicendo? Attenzione, prego Garibone, a vita mia che vede. E se avete con Franco, Franco da Smith, da così. Vedi, Ussi, da 9.20 a 9.40. Hai visto? Andiamo bene, dai. Dove sta? Qualunque c'è un consiglio, non te ne mettere il vento là, con l'amplificatore. Lascialo così, Luca. Ma scalda, Mifra. Vabbè, se è freddo perché non lo sto usando, però scalda. Ma non rimane nuda se pure scalda. Tanto non c'è il coso, quella rete di raffreddamento che c'è sopra. Quella serve per raffreddare i finali, capito? Non se la vuole fare avere casino quando parli. Infatti è vero. E lo scippatore. Lo scippatore. Lo scippatore. Non si può mettere il dissipatore nel 2009, già, ne sai qualcosa? Non ho capito. Nel 2009, ho detto, se si può mettere il dissipatore. Perché scalda? No, vabbè, comunque, lo volevo mettere. E per quale motivo? Ce l'ha potuto se lo vuoi mettere? Però che bello, il 2009, troppo meglio, troppo, mi piace un sacco. È bello l'apparecchio, bello, bello. Sì, io mi innamorato di questo apparecchio mio. È un cacchio, vento. Ma non che mi devo vendere tutto, là, sì, se no, bello, bello, sì. Cava, cava. È un bel veicolare da mettere in macchina anche. E me te lo fra. A ciò, Gairi. Ma ciò, che lo vendi io? Stavo sistemando un forno. Un forno a pasticceria, ma ho finito e sono andato al porto. Capito, ho cambiato la resistenza, ho avuto il raffreddamento. Si gava gava. Sì, già andava bene, dai. Già andava bene. Se vuoi va. Ma comunque va bene. No, io quelle 767 me lo tengo di scorta, qua ce l'ho nuovo, me l'ho conservato. Tante macchine c'ho l'altro, usami i vostri. Ma dai, a me. Io ne ho visto uno, RMX, Italy, bello, 120 kW, 300 watt. Ne ho uno da 300 qua e ci vogliono i finali. Li ordinate come mi arrivano, io li cambio. 5 finali, 30 euro. Quanto Luca, 120 euro? Figa di Lusubidu, costa l'RM Italy, costa 3 volte di più. Beh, così l'ho vista, aspetta il controllo, aspetta. Vabbè Gianni, allora. Vai tranquillo che sarà da 100. No, no, 300 watt, adesso te lo dico, aspetta. Allora io ne ho uno già, il CTE International HF, finale a Mosser, gli ordinati finali, 5 finali, 35 euro. Ma quello lì, quello che devi dare a me? No, quello lo sto riparando che lo tengo io quello lì. Se ne vai, ne hai 3. Veramente ne ha giù 4. Tieni, fatti la collezione. Poi uno da 1200. Sto vendendo uno da 1200 e 400 euro. Bello, eh? Da 1200. 1200 watt. Cosa hai fatto? L'affare con quella persona? No, negativo, no, no. Me l'hanno dato, ho fatto un lavoro, il conto lavoro ho fatto, capito? È nuovo, nuovo, bello. E che cos'è? È il ZG, il 2001. Capito, con trasistorizzato. Già, c'è il telefono vicino. Cava di positivo, già, sì, sì. Vabbè, ma io qua non ne uso perché non me ne frega niente, capito, usarlo. Adesso vedo un po' se venderlo o cosa fare. Ma io ho bisogno di lineare già. Cosa me ne porti no per lineare? Non sono a correnti, poi. Infatti. Vabbè, se la valvole consuma. No, è trasistorizzato, Lucia, Luca, ma consuma un po' di corrente, tranquillo, ui, lascia perdere. E poi Luca non ne ho bisogno di lineare qua, cioè cosa mi rivolto? Sì, ma consuma quello a valvole, fra non quelli a... quello, come si chiama? Quello che giù io, là. No, quindi non consumano nulla. Come lo stai alimentando, Luca, quello? Sì, qua, ti ricordi quel ZG, mi devi stare sistemando tu, e poi mi avevi detto che... si dice, come quelli che mettono c'erano problemi, poi c'è un cavo staccato, vabbè, comunque quello lì, la ZG. ZG, ah, quello grande. Sì, c'è un filo staccato, fra, non erano i fili che metto tu. Poi non, ma come non metto di tu, cos'era, l'animatatore? Sì, che te l'ha anche caduto, ma avevi problema a catto. Come non metto, non me lo ricordo, Luca. Sì, un altro da 55 qua adesso e poi l'ho fatto sull'altro apparecchio, su questo sto usando il 55 ampere adesso sotto. Sì, ma questo che c'ho io che finali c'ha come tuoi? Che cosa? Questo amplificatore che c'ho io che finali come tuoi c'ha? Cappa. Ecco, questo ne ha 4. E già. Ciao, il positivo fratello, vita mia che va a prendere, che è. Quanti naghi sul lineare? 4? Sì, 4 ne ha. L'ho aperto perché ho cambiato il capo, gli ho messo più lungo, perché c'era un capo corto. Non mi piace i capi aggiunti a me. Sì, 4 ne ha. La mettessi cosa giù batti io, Luca. Me l'ho smontato e gli ho saldato direttamente alla piastra. È brutto il capo aggiunto, a me non mi piacciono queste giunzioni dei cavi, gatto. Sono brutti da vedere, aiuto. No, io li ho messo quando ce l'avevo. Li ho messo un mamù e li ho collegati. Già, già. Oh, io, già. Comunque adesso mi devono procurare quella carcassa già. Oh. Un amico mi ha detto che forse ce l'ha, deve cercarmela. Vabbè, adesso gli ho messo la carcassa di quello, praticamente c'è tu, uguale al tuo, dai, la parte di dietro solo. Sì, vabbè, andiamo a avere una tesi, c'è bene, ma di lusso. E te l'ho detto, fa. Sì, vabbè, ma questo già, questa è tutta un'altra cosa. Questo ti faccio con un bel di passo. Ma questo, io l'ho sempre detto, questa è una radio, non è venuta da voi. È così. Questo che cos'è, amico? Questo è l'MC60 con 680. E vabbè, non è quella che devi dare a me. Già la do domani sta radio. Ui, qua a costo di non usarla e tenerla ferma di accendere, però questa non si dà a nessuno. C'è bene, bella, sì, ma è bella, sì, ma è bella, ma è già. C'è per cui si dice, poi quando capita la dai, e se c'è con Gesù di da parte, guardate, non me ne vedete. Ah, non è vendo, ma neanche se me ne viene uno mi dice ti do 400 euro, ma non ne do. Io ti ho così detto, non mi la va, me la dai. Praticamente c'ho il posto per mettere quello. già, lui lo sai qual è il problema, che poi non le trovi più questa radio qua, capito? E poi questa va bene. E anche lui se ce la c'ha, e poi se ce la c'ha c'è tutto qua, anche c'è tutto le, come si dice, distruzione. Adesso io ho anche la colonnina di questo, capito? C'ho la colonnina, l'alimentatore suo, c'ho tutta la linea io di questo adesso. Oh già, tu era un circolo vicino, lì, vicino a casa. Cosa? Era un circolo vicino a casa. Il circolo? Al circolo! Ah! E me l'ha visto Franco si chiama. Franco. Franco? Franchetto. Cazzo, già fa schifo, è allucinante. Tu cazzo di denti che gli si muoia in bocca. Stava pensando che stava venendo il vomito. Ah. Dopo c'era che cosa? Carrasciari che si picavava la dentiera e tutti quanti dicevano dentiera, dentiera, che stava via l'erba bambina attaccata, di schifo. Ma proprio schifo, questa cosa si riparava, mamma che cosa brutta. Ma cosa Carrasciari, ma Cimbrana se la toglieva, Cimbrana se la toglieva e tutti dicevano dentiera, dentiera, che è un circo, hanno fatto il filmato anche su. Metti Cimbrana, e già lo vedi, metti Cimbrana su YouTube. E a me si intende qua. Ah? Attento Gianni, doppio run. Ci ascolti questa piccola modulazione nel senso di capo. Di capo. Ascolto forte e chiasso. Mi piace questo, Luca, capo. Capo. Capo. Capo, vita mia, che avevo adesso. Forte e chiasso, vita mia, che avevo. Quanto è il segnale da te adesso, Luca? È a fondo scala, sì, fra. 9.40. Aspetta un attimo. Aspetta un attimo. Aspetta un attimo. Guarda un po' adesso, cambio. Casinizio che sei di lui. Beh, cuore, buonasera, capo. Se sei venuto lo di capo. Ma che dottore? Che sei due? E lo vuole che lei? Andiamo come a te. Ti esci tu te. E metto, come va? Da un piede all'altro. E andate per il medico, pure il medico ma giù in tutto. Cosa è per l'antenna, barcollando. Ma, sempre attaccata, eh. Ah, la mia stava barcollando di brutto stasera, cazzo. Ma la mia c'è un'infara. C'è un'infara, già hai visto, la giamante piazzata. Ma tu sei anche in basso, capito? Se tu dovessi mettere l'altro, poi la vedi schioppettata. Sì, l'altro sì. E vabbè, tu ne passa, passa, passa, Già si muovi, Davanti, zio Fra. Cappa, io invece la mia antenna di gomma è sempre dritta. Ia. Oh, Lu, tu sei anche riparto dei palazzi, capito? C'hai a spalle, c'è palazzi, quindi sei riparato. Senti venire la zona di casa, ragazzi, se non gli alberi pigiati giù. Beh, lì batte un bel il vento, Gianni, da te. Comunque l'hai controllata la tua, va sempre a posto, sì. Aspetta che mi tocca. Ciò, no, già è a posto, tranquillo, non si sta muovendo quasi nulla. Ho fatto bene a mettermi col tirante perché il vento va da quella parte brutta. E lì ci sarebbe voluto anche il tubo di sotto, l'acqua, capito? Per fare una cosa seria, ma va bene così lo stesso, dai. E beh, Tore, che te mi si racconta già? Cosa avete racconta? Barzelletti. Barzelletti, adesso che tu puoi intendere. Racconta qualcosa di più sostanzioso, dai. Cosa te devo raccontare? Che già da uno che vuol vendere tutto quanto. Come mai? Ma quella persona? No. Un'altra persona che viene da San Giovanni. Ah, e vabbè, tanto va. Non è vale più la candela, otto di spendere su di queste cose. Io non spendo più neanche 50 lire e non me la frega niente. Mi tengo quello che ho e va bene così. E poi vedi, e così forse io. Vengo vincio e boh. Cioè, quando ne hai tante di questa radio, poi cosa te ne fai? Non ne fai niente, tanto ne utilizzi sempre una. Vabbè, ogni tanto ne accendo un'altra, ma cioè... sono radio che poi con l'andare del tempo si rovinano, tutto qua. capito? Vai Luca. Infatti. E da sei andato Giovanni, quello di Batavone, cazzo, perché la stavo facendo male, era qua in zona, al ponte di Rosello, ma tutto cupo era. E gli ho detto se lo voleva quel Mobicom, se lo vuole, ma te non mi divorzo nulla. Che buonasera. Ciao Antonio, buonasera anche a te, ben ascoltato. E beh, tu a posto il microfono, ho fatto un bel lavoro. Funziona una meraviglia, funziona, non intendi? E li ho dovuti fare tutti nuovi, Antonio. Li ho accorciati, li ho fatti tutti in tutte le salature nuove. Cioè adesso dovrebbe... Poi ti ho messo il pezzo del... quel termo restringente, con i gas di giamma. Dovrebbe essere a posto. Ma lo sai perché uscite esce male dalla macchina? Te lo dico io. Perché lo pilota con quell'amplificatore non va bene, perché si mangia la radio. Franco, me lo dà un controllo? Non vedi niente Radio 5, a tu? Signora Amara, perché non sono a casa? E io ti ascolto così qua. 9:20 sto arrivando lì. K, sì sì. Adesso con 9:20 io, bravo. Tu vuoi darsi 9:20? 9:20 lui mi sta arrivando. Aspetta un attimo, esiste. Fai un passaggio. Scusate, se non 9:20 è possibile che sia 9:20 lui. Cazzo, detti che ti buttavo da me. Tu sei 9:40, Luca. 9:30, sì, a picchi di 9:40. Fai un passaggio a tu. Prova radio, prova radio. 9:05, 9:10 modulati, a tu. A Puglia che va bene. Via Milano qua. Sai, ti ascolto bene, non problema. E io bene sto arrivando io. Sì, prova un passaggio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ciao, ciao, buonasera. Ciao a tu. 9:15. Guarda tu quando ti sto arrivando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 25, cosa hai fatto? Nulla, è sempre uguale, sempre uguale. Sì, mica lo vengo a segnare. Allora, giusto, sì, una bizza, guarda adesso. Così non è. Adesso è per due posti, no, che non ti preoccupare. A tu, lo spitta, guarda, bene. Cacca, sono il facile sbaglio. Lo basso, lo grima, lo basso. Sarà bravo, quando arrivo a casa poi ne parliamo. Che attacco, il ZG attacco. Lo grima, lo basso. Oh, a tenere in varia, a me che si attacca chi sa fare da muso cazzo in noi. Quindi muove anche ma c'è per l'RM Italy, che smogo bomba. Sì, già, hai ragione, non è quello, questo costa un bel costa. Però costa qua 500 watt. Ma chi sono sì che funge, cosa dici? Vabbè. Cazzo, devo cambiare il vetro del telefono, mi sei tolto i pacchetti. Sono qua, sono arrivato adesso, sono qua, sono tutto per voi. Ciao amico mio di Porto Torres, arrivato sì, ma però. Io c'ero il genio. Buonasera a tutti, ciao amico mio di Sassarisi, ciao doppio rum, ciao a tutti, buonasera a tutti. A pochito sei oggi? No, perché? Ho messo entrata la droga, la voce. Vabbè, comunque mi hanno detto che c'è una Game Master piegata. C'è una Game Master? No, aspetta, non ho detto che era piegata, c'è un po' di vento, era un po' come... sai, il vento la piega, no? Ah, non qua, lei è truccata, eh. Ah, ma non mi piace molte antenne, ormai funziona bene, non è, non sto dicendo, è un'ottima antenna, però è molto... è un'antenna molto delicata. È molto flessibile, però già tiene, va. Ma dai, io vi saluto e ce la risentiamo alle prossimine. Ciao ciao, da casa, dai. Ciao ciao. Ciao. Vedi, Chiaramanto va come me, è fortunato. Io sono stato super fortunato qua, che me l'hanno sistemata. Ciao ciao Lu, ciao a tutti. Ciao Bobori, a dopo, ciao. Ciao. Ciao. E io vabbè, ho provato e poi la prossima metterò quella JP, come si chiama, quella di Claudio JP, la JP, quella lì. E vabbè, una vale l'altra, anche la mia va bene. E una vale l'altra, intanto usiamo sempre giù legge. Interessante che ci sia un materiale bello forte, e l'unica cosa è il vento, perché poi bene o male anche le antenne di quelle prese uno, vanno bene, quelle 580. L'unica cosa è che c'è la batteria lì finita. E finché dura questa fa figura. Andate. Oh ragazzi, che vento che c'è, mamma mia, avete visto i tifosi napoletani a Cagliari, Casinari si offende? No, non ho sentito nulla. Sono venuti a Cagliari a sfidare Cagliari Italia, ma proprio sono scemi, Ma ho visto che a Portatore se c'era una manifestazione di lavoratori. E quelli della zona industriale? Ha pagato. No, io è sempre un casino. Ma non andremo mai a finire. Io che sono dimesso con di me della guerra. No, non ci mettono d'accordo. Sì, infatti hanno atteggiato i colpi di mortaio, ne hanno buttato un asilo. A chi sono d'accordo? Dice che sono in addestramento. Che è l'addestramento? Non è una parte un asilo interno. Ciao Ghirio, buonasera. Ghirio, buonasera. Buon giorno, anche la modulazione la riconosci. California era questa. Hola. Ciao California. La modulazione la riconosco, mi dato già un apparato, boh. Nient'altro di qualche cardì, se no oggi si rovina, ho capito. Sì, via. E a Londra, che si dice? Vento, un po' di vento, però sempre forte la modulazione, sempre bella forte. Andate. E diciamo che la mia come radio è sempre questa, dai. Ogni tanto cambio. Ehi, io c'è anche doppio room e Luca di Luca l'amico mio di Sassari. Ehi, già lo so, c'ero anche io in ruota, solo che mi sono allontanato 5 minuti a farmi il caffè, tutto lì. Rilanciamo invece a Tore, se c'è ancora. Vai Tore. Chi è questo Tore? C'è l'attore Coso, come ti chiama, non mi viene in mente. Lo squalo. Attento, attore squalo, ci si. Riprendi Luca. Gianni, non c'è. Gianni, riprendi. Sai che sto cantando. Ah, vabbè, Gianni è cantante. Allora, Luigi, come mi stai ascoltando lì a Papatango? Ammaretta. Super 5, mi segnale 9 di brutto. Vabbè, sto usando la tua radio, non sto usando il 680, sto usando un 48 adesso, modificato. Peganti 9 di radio. Questo è il 48 modificato qua. Bello, forte. Il microfono originale. Capo di positivo, attenti Eugenio. Eugenio. Se ascolti questa piccola modulazione, capo. Bello, ecco, bello. Ripete tutta la parola, bello. No, io non li uso mai, ecco, anche noi che mi piace, non mi piace molto l'eco, ho capito. Quindi l'ho abbassato. Poi c'è l'aumento della potenza, guarda, così lo abbasso, di potenza, ora. Qual è la differenza? Sì, da 9 si è passato a 5. Adesso aumento, va. Adesso ho aumentato, sto secondo. Fanculo, si vede nulla, oggi. Guarda adesso. Si passa 9 modulati, 9 qualcosa, vai. Aspetta, Guarda adesso. Hai aumentato ancora di più. Sì, perché c'è 9,5, però rimane 9,5 modulati, fissi. Quindi va bene, dai, diciamo che abbasciamo un po' qua. Anzi, va nel crudo, così è meglio. Sì, però la radio va a saturare leggermente, troppo compressa. Quando l'aumento troppo, è normale, è così. Infatti lo sto lasciando, di solito deve far funzionare, non lo devi portare mai all'ultimo scatto, capito? Va benissimo con l'apparecchio, va veramente bene. Va bene, ora. Non l'hai fatto tu? Allora, questo qua mi avevano dato a sistemare una persona, un camionista. Poi questo camionista è andato in pensione. E mi ha detto, l'ho trovato, ha detto, guarda che l'apparecchio è pronto, se... No, mi ha detto... Ascolta, tienitelo, tanto io non utilizzo nulla, mi ha dato l'apparecchio, mi ha dato la colonnina, mi ha dato l'antenna, mi ha dato tutto. e me l'ha regalato praticamente. No, veramente bene, no, veramente bene. Che apparecchio è questo? Questo è il 48 Gianni modificato. Ah, quello che aggiusta tutto? Quello gli ho cambiato la colonnina, c'era la colonnina interrotta. Gli ho cambiato la colonnina e ho visto che sta funzionando bene. Piano grido, la colonna te la giuro da io. No, ne ho messo un'altra, non ci andava bene quella, no. Me l'ho tolta da uno Zodiac che c'avevo per pezzi di ricambio qua. E l'ho piazzata sul 48, comunque te sto usando adesso. C'ha il bipi pure. Oh Gianni, ma il tuo come l'ha verificato? È quello a valvole? No, è a transistor. Ma non dicono che mi devo la cosa a valvole? Sì, così si è sempre buffato di valvole. Quella transistor assorbe anche il meno corretto. Io qua è già meno mio, il meno due lo vuoi, dai, facciamo l'affare, vieni. Ma io? Ehi. No, però, non mi rimasto un cazzo. Ma così non è dentro il tuo video, perché me l'ha tenuta. Poi sono venuto qua, così mi, quando c'è qualche collegamento da fare, mi aiuta un po'. Se non ho pubblicato una video. Ecco qua, ma. Così attacchi c'ha di sotto, ci attacchi 1002 già, e la stessa di bagata è piazzata durante. Radio Claudio, mi l'ha chiamato ancora e la famiglia non mi ha risposto. Beh, sono un po' impegnato da altre parti, sono andato solo a salutarci. Pure io lo stavo chiamando a fare una prova, ho imparito. Perché ho abbassato il volume? Ah, ma che faccio la stessa cosa, non ti serve a te, ho abbassato il volume pure io. Vabbè, fallo. Ciao Claudio, buonasera. Saluto e baci e baci. Come mi hai fatto la gira? Vai, vai, torna a fare quello che stai facendo, va. Va bene, ciao. Ah, no, faccio così, sto con le torte baracchino. Va bene, fallo. E io vai a cucciare, vai, con l'altro le balle, vai, vai. Ciao, papà tua, va. Cazzo, non ti vedi mangiare, chi tu gare, non mi molla più. Uffa. E tu comprati un chilo di frittelle, almeno è più contento. E poi un caldo fesserino, se non li usa più nessuno, né la valvola. Tutto lo stato solido lineare, sono quelli della Rema Italia che sono i migliori, io ne ho due, va bene anche quello che c'ha Gianni, è meglio usare quelli transistorizzati, lo stato solido. Vabbè, anche 747 funziona bene, di lusso. Io penso, a chi lo faccio, da 9,20 a 9,40. Io faccio 9,40, 9,50, 9,80. Ah, vabbè, comunque a me l'ho preso per fare quando ho capitato che collegamento, ti aiuti un po', là. Non l'ho fatto per fare il buffone, capito? Vabbè, fai il buffone allora. No, non ne faccio il buffone io. Sono anche mio di Maggiugà. Ehi, vabbè, mi splendido, buffone, io su via. Basta, vai, vattene, vattene, non devi incazzare, vattene. Allora Gianni, ma devo splendere un buffone, se puoi venire attaccato. Io? Sì. E infatti, a voi devo segnare che tu vieni già attaccato. Io va, non ti va a morire. Eh? Tu non fai se lo vedi attaccato. No, no. Sono lì, ma lì di Nibà, lì di 901 watt, lì di 90, di quanta watt mi segna a me? Credo di poco funzionare, di poco. Vabbè, comunque, se va bene, 50 watt da mano, già basta, non voglio. Mi vedi del lineare, ma non avete paura di disturbare a qualcuno? Perché non hai detto un'altra di 747? Ma non è dato 100 watt, non watt come dicono. A me segna 50 watt, un obisco a 60 sale, non di più. Cioè, come due watt di entrata che li dai? Ah, e qua è il massimo quant'è? Molto bravo. Negli apparati Kenwood, non ce l'abbiamo nulla. In SSB li dai 100 watt. SSB ho capito. Cosa? Mi ha detto, negli apparati Kenwood lo puoi usare il lineare, sì. Sì, con quello che c'ho io, da 1200 euro, quello lo puoi usare. No, non ho capito. Allora cosa mi trova l'ubrigio? Io mi dico, mi sono in coscia di lineare per usare attaccate con la radio, perché non puoi usare un lineare normale. Devi usare dei lineari HF. Ma non volevo sapere quello. Io dico, voi zanni che io ce l'ho, costa 1200 euro, non costa 50 euro, 80 euro, 100 euro, 300 euro, costa un sacco di soldi per attaccare questa volta. Ma era tanto per sapere, cazzo io, signori, non ho mai avuto e non me ne faccio nulla. Beh, io ti ho risposto in base a quello che tu mi hai chiesto. Eugenio, come ti arrivo io? Sono con 5 watt dell'apparato. 7. Sì, adesso c'è Claudio. Claudio, non te ne andare un attimino, non mi vai io, adesso metto, attacco un altro microfono, aspetta un attimo. Sì, attacca, se no già. Sto già andando all'omologato, sto già andando al 3009. Già, ora ti faccio ridere, guarda su WhatsApp. Se no, il controllo 9 più 22, ma io provo anche il microfono, ma non sto facendo proprio lì. Ma io, sta arrivando qua così, è normale, ma non sono da te. 9 e 10. Aspetta. Guarda adesso quanto sono, 1, 2, 3, prova. 9 e 20. 10 punti, è giusto, dai. Ma non è quello, guarda, lo faccio lontano, ma la lontana era da 9 e 20, 9 e 50, 9 e 60, siete tutto attaccati, grazie. E poi il brevetto si fa una distanza. Io a te non ti vero, sono distante a te. Quindi da 9 e 10 a 9 e 20, ottimo, va bene. Io vai, qua, che non ti fanno perdere. Ma io fa vita, però. Tu cosa vedi, qua? Cos'è la tua differenza, vuoi sapere? Non darmi più te. La differenza che ce l'ha con l'altro, se è più bello, se va meglio, se va male. Vai, cosa devo fare, darmi più te. Darmi più te, cosa vuoi ci dica? Darmi più te. Questo non darmi più te. Questo darmi più te, se non ci manca che è fatto. Non avrei per una radio normale. Sì, come il 3-8. Lo spino 3-8, la batteria sotto, c'è cioè, vedi? C'è una duva c'è sotto. Vabbè, ottima modulazione. Hai visto già, fotomontaggio, perché c'è cioè, vabbè come ne facevamo un sacco, a bizzeffa me ne facevo. Metti mani tutti che è uno schifo, tu mi stai dicendo dell'ultima radio, vabbè, mamma gana, mi vabbè, ciao ciao. Vai, fine oggi, vai, ma giù 40 anni di radio, io di 10 radio, quello ero sempre MC60. Oh, questo non vale più 3, ma adesso aumento della metà, adesso è a manetta. Ha fatto qualcosa? Lascia perdere, ti ho detto. Ti mando la foto? Sì, mi mando io, ma la radio ti mando la foto, ma non mi danno la radio, lo danno più 3, ti dico, mi sto usando il 3 più 3, ma non stai usando il 3 più 3 tu, ma è collegato con la radio. Ah, l'archivo tu attaccato, ti faccio una videochiamata, ma te lo faccio vedere. Ma notate differenza, per me è sempre uguale. Ah, passa di UG. 2, 3, quasi giuro, il fanno più 3, adesso a manetta, giù, a manetta, ho girato il cursore nero. 1, 2, 3. Allora mi sta arrivando 9, 9, 5 a radio 5. Facciamo un po' di preamplificazione. E noi niente di speciale, va? Vabbè, lo restituisco. Ci rimetto il coso, l'MC60. Metti l'MC60 per adesso. No, non ci crede, non lo fa la videochiamata. No, perché non cambia niente, non ho differenza di radio, se mi ti dica. Sì, ma un conto non con che non cambia niente, un conto non chiedersi. Ho capito, non ti dico. Se questo conto ha fatto la videochiamata, te lo faccio vedere, è collegato. Ma che ti ho detto che non so da niente, ti ho detto una fesseria, perché è un'ottima modulazione. Ed è uguale come intensità radio, come tonalità, è tutto uguale all'MC60. Ok, quello che lo siete, adesso lo svitto e mi rimetto l'MC60. Aspetta. Adesso poi non devo fare quello baracchino di Don Camillo, io ti sto ascoltando con una radio HF e un altro discorso. Per me va benissimo. Ma la modulazione va bene. Ascolto bene qua Eugenio. Non c'è problema. Prova a attaccare l'altro, Eugenio. Ok, questo è l'altro. Questo è quello abbinato all'apparato, l'MC60. Ok? Tu di fretta non ti fa. No, per me è uguale. Poi non sento neanche lo scatto di MC60. No, questo è l'MC60. Cosa è lo scatto? Non so se fa lo scatto o meno. Però non cambia la differenza, per me è uguale Eugenio. Vabbè, intanto me l'hanno prestato e non è il mio. Quello grigio, c'ha i tasti neri, il cursore a sinistra per aumentare l'amplificazione, e a destra c'è un tastino per bloccare la portante. Sì, già è quello lì, Io ce l'ho nero come quello. Va bene, dai, proseguite, comunque Luca sta telefonando tutti bene, non c'è problema. Lugariello, riprendi. Fra, com'è la radio di questo apparato? Brava. 1, 2, 3, 4. Vabbè, io sono recuperato, ti ascolto bene, va bene. È un microfono dinamico, Radio 5 normale, senza essere amplificato. Zappa. Va bene, dai, interessa a te, è che vi sentiate bene. telefono normale, modulazione normale, comunque va bene, ti ascolto bene, sempre 5, radio 5, va bene, segnale c'è a fondo scala qua, c'è vicino. E vabbè, ma sono sempre con 5 watt, 5 watt dell'apparecchio. Ebbene, anche io sto scendendo con 5 watt, 10 modulati, quindi non è che cambia, eh. Appagata. A me un carriere, l'antenna l'ha portata via, vai. Luca, come mi sentite bene, sì, a proposito di che sono me che sto facendo questa radio? 9.10 radio 5, è qua, ultima modulazione. Non mi interessa segnare, la radio mi interessa sia che ho toccato qualcosa, perché lo sto usando spesso in mano laterale. Va benissimo. Va bene, va bene. Il vento carattere ha portato la GG, se ne ha vinto di Adena, un bici giù. Vai a casa, vai in roga. Ti ribidi tutti i venti, oh mamma. Anche domani, oggi ha cancellato le corse a Tirrenia e le altre navi che dovevano entrare. E anche domani il porto è chiuso, quindi non entrano neanche domani. Che palle. Anch'io viaggio vieni, castura a 400 metri, anch'io viaggio vieni. Mi sono dovuto barricare, allora ripeto, ho dovuto chiudere anche i sportelloni che non li chiudo mai, cazzo, perché stavo battendo il vento a tutto andare nei doppi vetri, fate il conto, io c'ho doppi vetri. Oppure mi devi sembrare a Doreva, mi ha mangiato tutto sotto la branda. Cazzo di erba. Sì, non è forte. 120 km orari adatto, oggi e domani, la stanotte aumenta ancora di più. Sì, c'è un tipo fai sui bazzi, sarò tutto, e se mi dai cu. Pensiamo non si può cercare l'antenna, dai no, che va. Sì, non si sarà buttato la gatta in campagna io. Si ha portato un'altra della televisione da vicino a me, gatto, Paolo è tutto, ha tracciato. No, non straccia niente qua, no. Lavoro fatto, l'ho fatto bene. La bimba ha andato le vuole per lui, quella grande, ho tolto quella piccolina, ho visto che è già freddo, ma non si muove. E questa c'è tubo d'acqua, da un pollice, a voglia. Sì, no, mi sono messi da tre pollici sotto a finire un pollice, quindi non va tenuta. Non c'è manco tiranti, niente, c'è bisogno di tiranti. Se sta fatta bene, i tubi sono buoni, non c'è bisogno di tiranti. Vabbè, dai, sono entrato, vi salutato, vi ho sentito, bacio a tutti, ci sentiamo, ciao. Ciao Claudio, saluta in casa anche da parte mia, da parte di Lucia. C'è la riascolta le prossime, fatti sentire, fatti vedere ogni tanto. Fra questo periodo col tempo buono abbiamo fatto un sacco di lavori, adesso c'è. Devo terminare la traveranda e poi vediamo fuori. Riprendi oggi. Oh, Marco Vari, ciao, ciao. Me lo vai, ci sta andando. Ciao. Arrivederci. Andiamo e andiamo. Radio, cash. Porta la antenna là, Marco Vari. Dove? Dove? Non vedi? Ma giù? No, domani la stacco qua. Va bene. Stacco tutto venduto, no. Stacco tutto, me lo porto tutto qua. Va bene, dai, domani vado col iPhone. Va bene, che quello è una bella bestiolina. No, mi sa che quello lì da 15 watt, non va bene per questo 747. No, sono troppi, massimo 8. Domani me lo regolo bene, dai, va bene. Dai, grazie, mi pigiamo, non la giugare, poi qui ci abbiamo una birretta, non la giugare, dai. Soldi risparmiati, 2 euro. Sì, ci abbiamo fatto quello fa come la una birrettina, 2 patatini. Allora vediamo poi televisione, sono già le 8:10. Ciao ragazzi, mi ha fatto piacere aver ascoltato dopo tanto, ciao. E allora Lucariello. Ciao. Lo sentivo frate, mi dà mia gamba frate, la mungingua gamba frate. Solo, ma per quella tastiera niente, no? Ah, azzitta fracca, mia casino va. Aspetta, che lo chiedo a lei, se la vuoi, perché il PC è suo, E ci avete il cazzo, fra io so a tutti, Pronti vostro, tu non hai i pezzi che ho. Però di quelle tastiere lì non ne ho. C'è solo la sua, che l'avevo cambiata, io quando me l'ho conosciuto, pensando, cazzo di cani 6 anni fa. Adesso vediamo, aspetta e controllo. No, ne compro una da Reggio e tre pongono esce da stiere portatile, se la vede in culo. E controllo, fra un attimino, dammi il tempo, e controllare, vediamo un po' se c'è. Va bene, vai Gianni. E che stasera è fra? La capi che c'ho io, praticamente non mi scrive la E, l'ho svuotata, l'ho pulita, niente da fare. Sicuramente ci sono, siccome quelle tastiere ci hanno un coso tutto in plastica all'interno, sicuramente c'è il pulsantino che non tocca bene, capito? A volte scrive, a volte no, un casino. Ma è portatile? È l'HP. Ma il telefono o il computer? Il computer, il portatile. L'altro acce si è bruciato e ce l'ho buttato una pasta, l'ho trasmontato per pizzi. Là c'era bello, cazzo, c'era una bella 500 di hard disk che era velocissimo, vaffanculo. Oh, io ne so cosa te ne muovo computer, sto usando più il telefono del computer. Ma io il computer lo uso perché sto seguendo quelle lezioni di radioamatore, capito? Quindi adesso sto utilizzando un tablet che ho qua, piccolino. A chi la patente di guida? Allora, quest'anno io devo dare l'esame, devo pigliare la patente radioamatoriale, non me la fotte nulla. Ma figlio di patente nautica? Ma cosa? Mi nipote la patente nautica, mi sto vendendo motore marino se ti interessa. E lo vendo questo motore marino, mica me lo posso mai inventare un gambe. Ti metti un gommone. Ah, il gommone dai 110 in su. No, questo qua non è Berrude, è il 500, il 521, non so se lo conosci perché è un modello, dai. Ma cioè io a me me l'hanno dato per l'ho fatto dei lavori e me l'hanno dato, capito? Me l'hanno regalato, si può dire, in conto al lavoro, poi mi hanno dato pure per l'attrezzatura di bordo. Ma non me ne posso nuda, me lo vendo. Ma c'è la barca? No, la barca ci vuole anche il carrello, cancio traino, ed è cazzo già un travaglio. Ah, ci ormai già fatto molto. Cioè vabbè, quel gommone è bello grande, l'ho venduto. E là ce l'ha accorto, cazzo, se la c'ha più. Ma cosa? E stanno rubando un po' di roba, tu oggi non lo sai, ma... Cioè amici, gli hanno rubato anche lì l'icca del motore. Questo non lo so. Cazzo, vivo lì al porto, non so le dinamiche del porto. Mi lascia stare. È possibile che rubano una roba dal porto che è controllato lì. Sì, già la rubano batterie, di tutto. Forse prima, ma adesso no, è tutto controllato dalle guardie. Può darsi adesso che sia diverso. Io ti parlo tempo fa, a un amico gli avevano rubato lì l'ricca del motore. Perché va bene, almeno 10 anni fa, se non di più. No, non penso che siano 10 anni. Però vabbè. Un'altra volta stavo pescando, si è avvicinata una moto, carrozzella, ha pigliato un motore da una vacca e se l'hanno caricato sopra. Io mi ho fatto gli affari miei, ma pensavo che fossero i padroni e invece poi si è saputo che l'avevano attaccato. E magari ne hanno rubato per pizzi, capito? Però molto strano, perché per togliere l'ricca ci vuole l'estrattore, gasta, come te ne hai cavato, che per il martito. E non lo so, fra. Poi ha fatto un altro messaggio. C'ha un bullone, c'ha e una... Ti ho mandato un messaggio. Se va bene, scusa già, ti ho mandato un messaggio. Hai capito, faccia una molletta e un bullone per bloccarlo. Sì, io ho capito com'è. Poi c'è il parastrappi che è all'interno dell'elica. Oh Luca, ma è uguale a quella foto che ti ho mandato io con la tastiera? Non guardare bene, questo qua è un... Allora, questo è un compact, ma è da HP, capito? Aspetta e guardo la foto, perché se va bene è ok. Vabbè raga, io vi saluto, dai, che vado a portare il cane. Ci sentiamo, buona serata a tutti. Ciao Jack, altrettanto. Vabbè, fra controllato. Che cazzo. Ciao Lumi, appena rientrato a casa. Sì, cosa già prendi a monello, a parecchio. Aspetta, ma sta accatto, l'ho agganciato il torbo. Sì, ma qua da un po', guarda. Qua c'è attaccato. Ecco qua, questo mettiamo qua così. Capito, tu. La monello sta facendo parecchio. No, negativo. Sono riuscito anche a staccare l'antenna, aspetta un attimino, ecco qua, ora ci sono i batti che devono essere, sono riuscito a cattare l'antenna in via Milano, un po' di meno in stazionaria però, chissà, comunque da lì pompa forte, e c'ho un apparecchio così, mi, ok dai, dai che adesso vado a mangiare, dai, almeno sto un po' con Sara, ci sentiamo dopo. E già sono a casa, dai, non ero, volevo uscire, sono giù, dai. E qui. Allora Luca, stavo ascoltando così, mangiando, facendo roba, volume un po' basso, che giornata del Menga, guarda, oggi niente, oggi non mi sentivo tanto così bene, mi sono adirato anche in casa, siamo per... e quindi non se ne gana. Non ti adirare che poi non arretti più. Ah, quello, ho già appeso l'uccello al chiodo per quello. Iniziamo a incazzarci, ma vaffanculo, va, se la piani in culo. No, mi sto provando un PC che non accendeva, c'erano vari problemi, non si fa farlo tranquillamente, boh, un mistero, cazzo. Ma detto che aveva detto un mistero. Boh, chissà cosa c'ha quello che avevo io, quello con XP è partito, il portatile, non si è acceso, non dà segni di vita, magari è una fesseria mia, magari è un fusibile, cosa ne so io, magari è l'alimentatore mio, io non ho provato alternative di alimentazione, magari è una cavolata. Prova se c'è, c'è l'alimentatore, se non lo fai da me già te lo do io. Sai cosa mi ricordo? Io per quel portatile tanti anni fa avevo comprato un alimentatore da macchina che trasformava da 12 volt a 19 volt, mi pare, vada quell'apparecchio, quel portatile Acer. Solo che chissà dove cavolo l'ho messo, c'avevo tutto, c'avevo gli spinotti multipli, lo potevi adattare a quasi tutti i portatili dell'epoca però, i computer portatili, vado a trovare adesso. No, è possibile, 19,5 l'amperaggio del portatile. No, vabbè, no. 19. Certo che sia, no? No, 19. Comunque. Vai, dai, cazzo, vattene da lì. Ma il discorso, cioè, voglio chiedere... No, va Marco, guarda un po', fai una prova col test, già lo sai usare, vedi un po' si dà 19, e sono già trovato io. Sì, sì, li dà. Però a me uno scherzo che mi ha fatto che alcuni alimentatori per altre cose, allora a vuoto ti davano tensione, ci ho detto amperaggio prima, tensione, vabbè, è quella è. A vuoto, poi collegavi l'elettrodomestico, tra virgolette, e c'era come una caduta di tensione, proprio tenendo il tester collegato, crollava, capito? Boh, vabbè. Comunque se trovo quello da macchina lo provo, almeno escludo l'alimentatore e lo posso usare con quell'apparecchio lì attaccato all'alimentatore da a 12, no, quello del baracchino, il secondario. Tu, se vuoi, non ci sono problemi con me, perché io sono uno che con una mano me la con la mano, l'altra mano, con l'altra due, tutto io mi lavo la faccia, no? Si dice così. Tu poi se io non lo porti te lo controllo, cioè l'alimentatore te l'ha dato uno io. Tranquillo, lo sai, io mi piace ricambiare i favori. Lo so Luca, che sei di buon cuore. Vediamo, pensa che ho trovato anche un altro alimentatore di un computer che non so di chi sia, da dove sia uscito, pare anche strano, però ha lo spinotto diverso, bisognerebbe tagliare e cambiare lo spinottino, e vabbè lì mi passa la gana, quando si tratta di fare saldature non... La vista sta peggiorando, le mani non sono ferme, la pazienza è anche poca, di saldare non mi piace più a me. Sì, fai qualche saldatura, cioè proprio non ce ne sono. Porta tutto quello che vuoi, mi ieri Antonio gli ho messo a posto, ieri ho stato a puntare tu con lui, avevo una birretta, ieri poi mi ha dato questo baracchino che non usciva di radio, c'era cioè, tutti i fili, ah sì, i fili. Allora gli ho tutti segnati in un foglio e poi... Come si dice? Aspetta. Mi ha scelto tutto un foglio e glielo risaldate, se la può. Sì, sì, certe cose sono anche abbastanza, cioè sembra chissà che cosa, poi vai a vedere una fesseria, ma va bene, adesso mi faccio il caffè, anche per mamma, se no ci addormentiamo al primo film, capito? La modulazione è tutto a posto qua, sì, questo è il McKinley, ogni tanto vado a rotazione e questi a lasciarli fermi, più li lasci fermi più si sciabideggiano, nuovi, vecchi, tutti quella fine fanno. Cos'è il McKinley? Sì, President McKinley. No, perfetto Marco, no, io, guarda, io tutti gli anni che ti conosco, ma ci conosciamo un po' di anni, non ti ho mai sentito uscire male, mai, se mi ricordi io mai. Vabbè, il mic è quello originale, mic originale, President è comodo perché ha i tastini up down, credo che sia con la capsula a condensatore, anzi no, sono sicuro, sì, capsula a condensatore, tutto di serie, questo è carino in macchina, poi c'ha mille canali, AM/FM, banda laterale, tutto, l'autoascolto, il lecca leporie, ho perso anche il conto. Però guarda Marco, il 3009 Superstar a me piace un sacco, bello cazzo, è troppo bello, bello apparecchio, bello bello, mi sto trovando benissimo, colpi di biglia, pochi in nulla, è veramente un bel apparecchietto, l'unico problema è che non ha dissipatore, ma non ha fatto nulla. Ma tu qual è l'ultima serie? Quello, vabbè, monofinale, sai cos'è? Che scalda talmente poco con quei 4 watt suoi, vabbè, fino a 7-8 glieli puoi dare, però tende a saturare, a abbassare la 12 SSB, io l'ho lasciato poi omologato, non scalda nulla se lo lascio omologato, perciò non ho messo dissipatori, tanto poi per pilotare già c'è altro a pilotare. Vabbè. Infatti, questo ce l'ha pilota, uno, qua, no, e due, questo è il pilota. Allora, vabbè, qua sei già, qua mi accendi il 920, questo è secco, Eli Smith, molto secco, il 920, quando attacchi il 930, capito? C'ha tre tacchi, il 10, il 20 e il 30, cioè non è che puoi vedere molto qua, però si nota la differenza. Se vuoi ti controllo attenuato, fammi capire come si attenua. No, qua è tutto menù, devi premere una cosa, poi premi un'altra, poi giri il rotativo, poi confermi tenendo premuto, no, un incubo è. Vabbè, tutto digitale è quello Marco. Sì, già è carino, c'è l'altoparlante frontale, però quando devi fare qualcosa ti devi ricordare tutto menu, sotto menu, devi premere prima un tasto, tasto funzione, poi devi premere quello, poi con la mano per i canali devi regolare la funzione che hai selezionato e poi confermare tenendo premuto un secondo la mano per i canali, che fa da selettore comunque per tutte le funzioni. È un po' una palla, il 3009 da quel punto di vista è più immediato e superiore. Va bene. Ma questo vostro computer, l'ho parcheggiato, no? Un bel pezzo, no? Era di una vicola, tu non accende. E poi quando vuoi dimmelo, no, tieni dopo il pezzo, mi ha detto, vabbè. Ma così l'ho provato. Era acceso. Adesso, ultimamente mi stava accendendo. Non lo so, c'era un sistema per accendere, il tastino accensione attaccato, no? E se mi carica batterie, molte volte accendeva, molte volte no. Una volta che parte funziona, però adesso sta accendendo tranquillamente come un normale computer. Sì, sì, è come il computer che a volte non vuole partire, a volte parte, boh. E beh, Antonello, ho visto quella cosa lì, quella è più complicata però, Vabbè, dove è bello, lavorerò a piazzi, ripete. Sono tre modelli, uno è il normale, quello normale, semplice, l'altro è un crossband e diventa delicata la cosa, molto delicata, anche da configurare. Ho capito, c'è anche uno, una pare per agganciarne due di cose, di apparecchi, è bellino, c'è anche quello semplice, va bene, non costa molto, è bianco di colore. Dove c'è acceso? Ma dimmi tu. Siete in radio